Undicesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, undicesimo canto. O Padre nostro, che nei cieli stai, non circunscritto, ma per più amore ch'ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome, il tuo valore, da ogni creatura, com'è degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venia ver noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, s'ella non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te, cantando osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal ch'avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, benigno, e non guardar lo nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona, non spermentar con l'antico avversaro, ma libera da lui che sì la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, già non si fa per noi che non bisogna, ma per color che dietro a noi restaro. Così a sé e noi buona ramogna quell'ombre orando andavan sotto il pondo, simile a quel che talvolta si sogna, disparmente angosciate tutte a tondo, e lasse su per la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice, di qua che dire e far per lor si puote, da quei c'hanno al voler buona radice? Ben si dee loro a tar lavar le note, che portar quinci, sì che mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. Deh, se giustizia e pietà vi disgrevi, tosto, sì che possiate muover l'ala, che secondo il disio vostro vi lievi, mostrate da qual mano in ver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco, quel ne insegnate che men erto cala, che questi che vien meco per l'on carco della carne d'Adamo onde si veste, a montar su contra sua voglia è parco. Le lor parole che rendero a queste che dette avea colui cui io seguiva, non fur da cui venisser manifeste, ma fu detto: a man destra per la riva con noi venite, e troverete il passo possibile a salir persona viva. E s'io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma, onde portar conviemmi il viso basso, cotesti ch'ancor vive e non si noma, guarderei io per veder s'il conosco, e per farlo pietoso a questa soma. Io fui latino e nato d'un gran tosco, Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre, non so se il nome suo già mai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre di miei maggior mi fer sì arrogante, che non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbi in dispetto tanto avante, ch'io ne morii, come i sanesi sanno, e sallo in campagnatico ogni fante. Io sono Umberto, e non pur a me danno superbia fa, che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io questo peso porti per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia, poi ch'io nol fe tra i vivi, qui tra i morti. Ascoltando chinai in giù la faccia, e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che l'impiacciava, e videmi e conobbimi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava. Oh, diss'io lui, non se tuo derisi l'onor da gobbio e l'onor di quell'arte ch'alluminar chiamata è in Parisi. Frate, diss'elli, più ridon le carte che pennelleggia franco bolognese, l'onore è tutto or suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza ove mio core intese. Di tal superbia qui si paga il fio, e ancor non sarei qui se non fosse che, possendo peccar, mi volsi a Dio. O vana gloria dell'umane posse, con poco verde in su la cima dura, se non è giunta da letati grosse. Credette Cimabue nella pittura tener lo campo, e ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan rumore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi, pria che passin mill'anni, che è più corto spazio all'etterno ch'un muover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui che del cammin sì poco piglia dinanzi a me, Toscana sonò tutta, e ora appena in Siena s'empispiglia, ond'era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo sì com'ora è putta. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quei la discolora, per cui ella esce dalla terra acerba. E io a lui, tuo vero dirmi ancora buona umiltà e gran tumor m'appiani, ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quelli è, rispose, Provenzan Salvani, ed è qui perché fu presuntuoso a recchiar Siena tutta alle sue mani. Ito è così e va senza riposo poi che morì. Cotal moneta rende a soddisfar chi è di là troppo oso. E io, se quello spirito ch'attende pria che si penta l'orlo della vita qua giù dimora e quassù non ascende, se buona orazion lui non aita prima che passi tempo quanto visse, come fu la venuta lui largita? Quando vivea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena ogni vergogna disposta s'affisse, e lì per trar l'amico suo di pena che sostenea nella prigion di Carlo si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò e scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che i tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Quest'opera li tolse quei confini. Fine dell'undicesimo canto del Purgatorio.